La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ci siamo, eccoci qua, all'ora di cinema di Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi. Com'è vicino il Natale, mamma mia, com'è vicino, lo sapete tutti, indaffarati, compere, acquisti dell'ultima e ultimissima ora. Ci sarà un'altra rosa purpurea prima di Natale, non preoccupatevi. Anzi, vi dico già che ci saranno delle puntate speciali per i giorni di Natale, Santo Stefano così, e per i giorni di Capodanno e compagnia, dove analizzeremo un pochino quel che ci sarà da vedere in sala e soprattutto cosa ci aspetta dal 2018 cinematografico. Però questa è una puntata, diciamo così, di quelle del sabato, di quelle che vi portano dentro la sala cinematografica per raccontarvi il meglio del cinema che c'è in un weekend, quello del 15 dicembre, che è, come dire, boom boom, insomma, è proprio altissima stagione. E chiaramente noi abbiamo voluto dividere un po' in tre grandi capitoli la nostra rosa purpurea di oggi, perché c'è da una parte uno scontro titanico di cinepanettoni di oggi e di ieri, e vi spiegherò perché. Poi un Woody Allen straordinario, ve lo preannuncio, davvero straordinario. E poi Star Wars, e Star Wars sta dividendo sui social tantissimo. Quindi insomma abbiamo tre grandi ragionamenti da fare e li faremo come sempre con Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio a tutti. Allora, lasciamo le cinture del Millennium Falcon e cominciamo un po' coi cinepanettoni, che di cinture non ne avevano bisogno, anzi forse sì, perché come dicevo è una settimana particolare. Natale da chef, poveri ma ricchissimi, e poi a fare un po' da sintesi in un certo senso e forse anche da prodotto di punta fra tutti questi, anzi senza il forse, questo Super Vacanze di Natale, che è l'antologico di Vacanze di Natale. Fra poco tra l'altro sentiremo Paolo Ruffini che l'ha curato. Ma cominciamo da Natale da chef ascoltando questa clip. Lei è il più grande chef del mondo. Sarà il mio chef per il prossimo vertice del G7. Come i tre moschettieri. Uno per tutti, tutti per uno. Ma che volete scambiare il culo per la salsiccia? Uno chef internazionale come me, gli ingredienti li trova sul posto. Ma non potevo andare al supermercato. No! E che ci fa dentro la torta? È una torta della nonna. Pensate un po' all'invidia dei miei colleghi quando gli dirò che mia moglie farà i bomboloni a Donald Trump! Insomma, come avete capito, una comicità raffinata, insomma, no? Proprio fatta di piccoli understatement. No, come sempre, questa comicità molto tagliata con l'accetta della commedia, del cinepanettone il nostrano, con Massimo Boldi, protagonista nei panni di uno chef, Gualtiero Saporito, che è un grande chef solo nella sua testa, perché quando poi si cimenta con gli ingredienti vengono fuori dei grandi pasticci, più che dei pasticcini. Insomma, le gag sono le solite, le battute sono belle grevi, e per chi ha amato, diciamo, il cinepanettone classico, quello che aveva furoreggiato negli anni 80 e 90, questo può essere un po' la proposta. Una proposta che ci fa riavvicinare un personaggio, Massimo Boldi, che Chiara Pizzimenti ha intervistato per noi. L'aveva mai fatto lo chef in un film? Ma avevo tentato di fare lo chef in un film che ho fatto nel 2010, che era A Natale mi sposo, ma era solamente un pretesto. Invece qui è proprio una storia dedicata appunto al cibo, come va di moda in questo momento. Però devo dire che tanti personaggi che io ho fatto al cinema in tanti anni, questo è praticamente un po' un personaggio diverso, un personaggio nuovo, anche perché qui succede un fatto, che qui passano gli anni, siamo sempre più maturi, però c'è una cosa curiosa, che io incontro tantissime persone che hanno, anche loro non sono giovanissimi, dove dicono: Boldi, mi faccio una foto con lei, perché io sono cresciuto con i suoi film. La Madonna, ma sei cresciuto? E di lì ancora i loro figli. E la cosa simpatica è che i ragazzi, i gruppi di ragazzi giovani, mi fermano, vogliono fare le foto e soprattutto ripetono le battute, che non mi ricordo nemmeno io quali battute sono, cioè sono tutte. C'è una nuova generazione che ha scoperto ancora Boldi De Sica, perché poi, voglio dire, siamo stati insieme quasi 25 anni, e quest'anno io mi auguro che il Natale sarà un Natale straordinario, dove il pubblico andrà a vedere prima Chef, esce da Chef ed entra a vedere De Sica, esce da De Sica ed entra a vedere Chef. A vedere il Cinepolpettone non ci va? Ma magari sì, prima devono vedere i due film, dopo dicono come sono i film di, come sono i film di Bolli e De Sica, ma una cagata, andiamo a vedere il Cinepolpettone che è meglio. Sono sempre Bolli e De Sica. Bolli e De Sica, perciò è strana la cosa. Mi ricordo, se ricordo bene, un suo personaggio TV, lei aveva un cinema. Io ho un cinema in casa, io ho collezionato quasi 1000 film in 30 anni. Ma le chiedevo che cosa le piace vedere, se le piace vedere i vecchi film che ha, se le piace vedere i nuovi. No, tutto, mi piace tutto, tutto, tutto dal cinema. Cosa ha visto? Ultimamente ho visto un film di Jerry Lewis, I Sette Magnifici Jerry, ed è straordinario. Quello è stato veramente uno dei... Forse è il primo comico del dopo Novecento, insomma, straordinario. A parte Stanley Hollywood, Buster Keaton, Chaplin, eccetera, voglio dire, vabbè. Però quanti si sono ispirati a Jerry Lewis? Tantissimi. Insomma, abbiamo riscoperto la vena cinefila anche di Massimo Boldi, che davvero è un grande collezionista di film in pellicola e quindi ha questo cinema in casa straordinario. Natale da Chef, la prima proposta cinepanettonica. Adesso noi facciamo subito un salto sulle strade a sentire come vanno le cose per la viabilità. Poi torniamo subito e vi facciamo ascoltare qualcosa sul secondo cinepanettone, diciamo così, tradizionale, insomma una commedia estremamente natalizia che si intitola Poveri ma ricchissimi. Sono un artigiano. Ho creato una piccola impresa perché volevo crescere col mio lavoro. Ho usato tecnologie innovative, inventato, conquistato nuovi mercati, creando lavoro non solo per i miei figli, ma anche per quelli degli altri. E ora che sono in pensione, posso dire che la mia vita è stata un'impresa che non è ancora finita. Confartigianato affianca e tutela i pensionati, perché chi ha dato tanto, merita tanto. ANAP, i pensionati di Confartigianato. La rosa purpurea. Per un pagare le tasse e un pagarne di meno, che dovemo fare? Famo diventare attore secca in paradiso fiscale. Tu si pronta pa' fuga di cervelli. Lasciatemi cantare. Beh, dobbiamo ancora decidere la bandiera, la moneta unica e l'inno nazionale. Ma per chi non si famo scrive l'inno da Fedez? Fedez? Ma che è in arabo? Ma posso offrirle un altro po' di prosecco? No, se esagero troppo con l'alcol mi viene un problemino alle gambe. Che problemino? Niente, mi si aprono. Noi siamo poveri ma ricchi. Insomma, avete sentito, qui siamo in poveri ma ricchissimi il cinepanettone aleggia, anche se è una commedia un po' più slegata, se vogliamo, da queste atmosfere natalizie, però invece no, perché alla fine le battute sono un po' quelle e perché la storia qua è quella di una famiglia, i Tucci di Torre Secca, che avrete forse scoperto nel primo Poveri ma ricchi, che sono ancora più ricchi di prima, e chiaramente anche qui si procede un pochino a gag. Questo è un film, tra l'altro, che, voglio dirlo, rischia di passare alla storia prima ancora di essere uscito in sala per la famosa querela legata al nome del suo regista Fausto Brizzi, che era stato di fatto tolto dalle locandine pubblicitarie, ma c'è poi nei titoli del film. Richiamiamo in servizio Boris Sollazzo. Vi abbiamo fatto sentire allora Natale da Chef, il cinepanettone classico, Poveri ma ricchissimi, la commedia natalizia con molte venature di cinepanettone. In tutto ciò, Boris, mi sembra che alla fine siano due film che guardano forse più al passato che al presente, più a un pubblico di ieri che a un pubblico di oggi, e forse invece al pubblico di oggi farebbe più bene la visione del terzo film che arriva in sala questa settimana, che è Super Vacanze di Natale, che è un film antologico che invece ne faceva riferimento la nostra Chiara Pizzimenti l'intervista con Boldi, no? Il Cinepolpettone, perché è quello che rimette insieme un pochino 35 anni di storia del cinepanettone. Sì, questi tre film secondo me ci dicono che il cinepanettone è morto, nel senso che il modello antiquatissimo di Brizzi e parenti Boldi è evidente fin nella sua struttura. Natale da Chef l'avremmo potuto chiamare mutuando il nome di un talent molto famoso, Master Trash oppure Trashatouille. È il tentativo di prendere qualcosa, come diceva nell'intervista lo stesso Massimo Boldi, di moda, cioè la cucina in TV, la cucina che diventa show, e farlo diventare comicità sempre di quel tipo, insomma la battuta di Salvi ci dice molto. Dall'altra parte noi abbiamo un Poveri ma ricchissimi che nasceva da un modello francese e che poi è stato ripreso dal remake Poveri ma ricchi dello scorso anno, e qui però invece ci si ritorna Poveri ma ricchissimi invece sul modello del cinepanettone. Anche qui si prende un'altra cosa che va di moda, ovvero Donald Trump, ovvero il secessionismo, e quindi ci si ritrova con un De Sica trasformato in un Donald Trump di Torre Secca, in una Lucia Ocone bravissima, devo dire, nella mediocrità generale, in una Melania Trump un po' burina, e anche qui però le battute sono estremamente derivative, non c'è un'attenzione, una cura, e a quel punto è inevitabile che Super Vacanze di Natale vince per distacco. E però dice anche che il cinepanettone è morto, e in fondo Aurelio De Laurentiis ce lo sta dicendo da anni, perché ha deciso non di cercare un altro regista, propriamente detto, non di cercare un altro cast e magari di ricostruire qualcosa di alternativo come aveva fatto in passato, ma di fare questa antologia. Sceglie Paolo Ruffini come Boldi, cinefilo patologico, ha qualcosa come 24.000 pezzi tra videocassette, pellicole e DVD nella sua casa, espertissimo, anche perché credo abbia fatto anche lui da attore 6 o 7 cinepanettoni, e Ruffini fa qualcosa incredibilmente di rivoluzionario, perché costruisce questa antologia che non è solo un mix, ma che ha anche una sua coerenza narrativa. Quindi una sorta di Totò a colori che ha una sua efficacia, che ci racconta cosa siamo stati in questi 35 anni e che paradossalmente, dato in mano a un ragazzo che ha una bella testa e ha una profonda conoscenza del genere, riesce ad essere molto più moderno nella sua nostalgia dei due film originali. E allora nel frattempo noi ascoltiamoci l'intervista proprio con Paolo Ruffini. Cominciamo a capire un po' come parte, dove parte la tua passione per i cinepanettoni. Allora, io, tanto siamo a Regia 24, ci si può aprire completamente. Enormemente. Allora, io ho un cineforum che si chiama Nido del Cuculo, da sempre a Livorno. Noi nel 2001 abbiamo organizzato una proiezione di Merry Christmas, perché volevamo discostarci un pochino dall'idea di cineforum che presentava film in polacco, con sottotitoli in neozelandese. Cioè, si faceva sì Bella Tar, l'espressionismo tedesco, però magari, ecco, Kubrick con 2001 nello spazio. Però il giorno dopo mettevamo Ruggero Diodato con Cannibal Holocaust. E quindi scrissi una tesina su Merry Christmas e sul valore che secondo me aveva Merry Christmas. La mandai a Neri Parenti, che venne con un allora giovanissimo sceneggiatore che era Fausto Brizzi, e si fece una grande proiezione di questo film. Io li amo da sempre i cinepanettoni. Immaginati l'emozione quando Luigi Aurelio De Laurentiis mi hanno chiamato quest'anno per dire: guarda, noi vorremmo fare un'operazione antologica, abbiamo pensato a te. E ho detto: ma bisogna fare un... devo comparire? No, fai da supervisione artistica, perché poi alla fine non è una regia. Quindi l'operazione è quella di mettere insieme il meglio di 35 anni di risate, di cinepanettoni messi insieme e organizzati in maniera organica, con una drammaturgia e un grande fil rouge che è la risata. Perché ami il cinepanettone? Qual è il valore sociale e cinematografico che trovi dentro questo genere? Ce ne sono molteplici. Prima di tutto, io credo che sia un tipo di cinema libero, scatenato. È un tipo di cinema che, se tu rivedi le battute, le situazioni, la demenzialità che c'era, a me commuove molto, anche perché tutta quella libertà oggi non c'è palesemente. Cioè, c'è sempre stato un dibattito culturale su questo tema. Allora, la verità è che in un cinepanettone non vedrai mai una goccia di sangue, in un cinepanettone non vedrai mai un cattivo. Ho riflettuto che Massimo Boldi è l'attore che si mostra più nudo nella storia del cinema italiano, e io sfido qualsiasi genitore a tappare gli occhi a un bambino se vede Massimo Boldi nudo. Quindi non è volgare mai, non è mai stato volgare. Il signor De Sica, quando dice anche un'espressione, una cosa, se vuoi un'espressione anche di turpiloquio, ma è di una liricità pazzesca, è il come. Quindi erano, credo, una delle coppie più straordinarie del cinema, non italiano, ma al mondo, perché avevano una complementarietà straordinaria, uno molto fisico, l'altro di parola. Uno riusciva a essere anche cioè Massimo Boldi entrava in doccia e faceva avanti 3 minuti così. C'erano dei momenti di improvvisazione che sembra veramente Totò e Peppino. Cioè, sono delle cose straordinarie. Amo il cinepanettone perché è un prodotto sincero, perché tu per 2 ore avevi l'opportunità di andare al cinema con tutta la famiglia, sapendo di vedere una cosa leggera, semplice, uscivi soddisfatto, come le lasagne, esattamente come il panettone, come quei tortellini che mangio a Natale. E io questo patto con gli spettatori lo trovo eccezionale, lo trovo politicamente eccezionale. Non c'era mai un imbarazzo, quindi non ci avevi mai veramente, staccavi la spina. L'idea, stacco la spina 2 ore e vado al cinema, è un'idea popolare stupenda. È un'idea che per un pubblico che a me mi ha sempre fatto incazzare un certo tipo di critica, perché non solo commentava il film, ma commentava anche il pubblico a cui si rivolgeva. Questa spocchia, questa arroganza e questa presunzione ha portato a far sì che oggi siamo in un momento storico per la comicità molto buio e tempestato da dei soloni che si aggirano sui social e che non commentano ma danno giudizi, dove non ci sono dei giornalisti ma ci sono dei blogger che sostengono che bisogna elevarci intellettualmente, come se dire fava fosse un'onta, e non si sono resi conto invece che questi film avevano un grande valore sociale. E questo è il problema, che bisogna aspettare sempre un po' di più per conoscere che Paolo Villaggio in realtà era un genio, che consentiva di farci ridere sulla miserabilità dell'uomo medio e senza farci sentire in colpa. Non ci metteva mai il senso di colpa addosso. La cosa bella dei Cinepanettoni è che avevano una rappresentazione della classe media borghese italiana o dell'alta borghesia italiana, che in realtà sfottevano completamente, quindi anche politicamente erano molto avanti. Un romano e un milanese si incontrano dopo una gara in Ferrari, sono a Cortina, si fanno le corna e succedono varie vicissitudini. È una cosa che è sempre successa da Plauto in poi, cioè, la faceva Fedò, la Pochade, cioè una porta si apre e una porta si chiude, quindi anche a livello culturale, se vuoi, aveva una valenza. L'unica cosa che un certo tipo di critica, perché in Italia il successo non si perdona mai a nessuno, è come se fosse una malattia, è una cosa da cui devi stare lontano, una sorta di lebbra, è proprio il fatto che abbiano portato un po' tutti verso una deriva che è molto più imbastita e molto meno libera, ma questo anche televisivamente, insomma, pensa se ci fosse oggi Drive-In, pensa c'è un Franco D'Angelo con Asfi Duncan, arriveranno gli animalisti e te la farebbero levare, oppure Renzo Arbore, pensa alle ragazze Coccodè, pensa ci fossero domani le ragazze Coccodè. Com'è che hai fatto a tirarne fuori un film e non un insieme di spezzoni? Ma lì è la semplicità è quella, che anche gli spezzoni ormai li trovi ovunque, no? E poi la drammaturgia nasce proprio dall'accostamento, che a volte è emotivo, a volte è anche proprio invece narrativo. Ti dico, ovviamente ridere per 1 ora e mezzo, anche quello annoia, quindi l'operazione che abbiamo fatto qual è? È creare una nostalgia che però non sia malinconia, ovvero una nostalgia che quando tu pensi a quando ridevi con quelle cose ti rendi conto di quanto eri più leggero, di quanto eri meno carico. Erano film in cui, quando tu andavi a vedere quei film, non c'era bisogno che qualcuno ti dicesse spengi il cellulare, e questa è la cosa sostanziale, capito? Cioè erano film che ti consentivano quella leggerezza che oggi magari fai fatica a trovare, perché siamo bombardati da... Ma io sono un progressista, non sono per niente non vorrei essere tacciato di essere un nostalgico, però mi rendo conto che inevitabilmente un certo tipo di demenzialità adesso ci manca, e credo che soprattutto adesso che se n'è andato anche Paolo Villaggio, cioè rendiamocene conto che la comicità fa parte della nostra cultura. Il Cinepanettone del cuore di Paolo Ruffini? Ti dico Merry Christmas, perché è quello che proiettai quella sera a Livorno, e quando proiettai Merry Christmas al cinema 4 More di Livorno ero già emozionato per avere con me Neri Parenti, che era un mio mito, lui ha firmato tranne i primi 2 tutti i film di Fantozzi, e sognavo un giorno di partecipare al film come attore. Quindi pensa, io c'ho un detto nella vita, che quando si realizza un sogno bisogna ricordarsi di averlo sognato. Quindi vorrei andare al Paolo Ruffini, che organizzava il Cinema 4 Mori, quella proiezione di Merry Christmas, e dire non solo tu ne farai 5 da attore, ma ne farai anche 1 da supervisore. E io avrei detto te sei pazzo, hai bevuto troppi ponci. E invece mi trovo qui con la fortuna di parlare con te di questo progetto. E allora, questo era Paolo Ruffini alla Rosa Purpurea per raccontare Super Vacanze di Natale, esaurito il mega capitolo sui Cinepanettoni. Giochiamo insieme, perché abbiamo da farvi ascoltare la prima traccia del film misterioso di oggi. Si riesce quasi a vederla da qui. Cosa? La nostra terra. Beh, ve l'abbiamo fatta proprio breve perché è un film straordinario, ma insomma che ha avuto una bella eco, una grande cassa di risonanza. La Rosa Purpurea, @radio24.it è il nostro indirizzo per giocare e provare a vincere una delle 2 copie in Blu-ray di questo film. Mi raccomando, il titolo del film e il vostro indirizzo. Più tardi vi faccio ascoltare un'altra traccia, adesso Lina alla regia, poi arriva un grandissimo film di Woody Allen, fra poco.

che per loro è un po' meno fatata che per altri, irrompe la figlia del primo matrimonio di Humpty, Carolina, che è in fuga da qualcuno che le vuole fare del male, un amore finito male, purtroppo era un amore con un boss, e la ragazza sta cercando riparo, lo cerca in una famiglia dalla quale era scappata, che non la voleva più vedere, e ritrova una donna nuova che non è sua madre, con la quale tra l'altro parte anche un discorso di rivalità amorosa, di cui non vi diciamo di più. Questo è il contesto. Allora facciamo così, ascoltiamo subito questa clip, è proprio il momento in cui Humpty parla con sua figlia Carolina e la madre ha una sorta di momento di grande gelosia. Sentiamo. Carolina, Ryan e Leo dicono che sei una cannonata. Ehi, ma sì, che sono io, la donna di servizio? Non ti potresti sparecchiare da sola? Sì, certo, no, mi fa piacere aiutare. Laverei i piatti, ma mi sono messa lo smalto. Beh, io non ho voglia di lavarli stasera. Si è messa lo smalto? Beh, li lavo io. Li lavo io. Interpreto la cameriera. Qualcosa la rode. Wonder Wheel, la ruota delle meraviglie, e la ruota delle meraviglie a cui si fa riferimento, che è sempre sullo sfondo di questo Luna Park cinematografico, è la ruota della nostra vita, è la ruota di una vita che gira e che non sempre ti dà la possibilità di salire, perché a volte non si ferma. È un po' quello che succede ai protagonisti di questa storia, che sono protagonisti di un'America minore, proprio nel momento in cui si sta realizzando il concetto stesso di sogno americano. È un film struggente, un film di disperazione, pur essendo di Woody Allen, pur rimanendo fortemente di Woody Allen. È un film recitato in una maniera divina da tutti i protagonisti, ripeto, Kate Winslet in primis, ma anche James Belushi è straordinario. È un film che ha un'estetica da brividi, davvero firmata da Vittorio Storaro, una fotografia clamorosa che si rifà, diciamo, se vogliamo, ad alcuni stilemi pittorici di una certa pittura americana degli anni 50, ma cito soprattutto Reginald Marsh, Norman Rockwell, ma figlia teatralmente invece la drammaturgia del teatro di Tennessee Williams oppure di Eugene O'Neill. Insomma, un mix straordinario, luminoso, ma al tempo stesso pieno appunto di una qualcosa, di un'avversità della vita che da un momento all'altro sembra dover scaturire dalle vicende dei protagonisti. Boris, io francamente che ho amato Midnight in Paris oppure Blue Jasmine, non ricordo un Woody Allen così bello negli ultimi 20 anni. E sono d'accordissimo, io sono stato molto più critico verso il Woody Allen ultimo, diciamo quello da Match Point in poi, perché secondo me non riusciva più a trovare quella felicità narrativa e visiva che aveva avuto non solo nel passato dei capolavori, ma anche poi nel più recente avvicinamento alla vecchiaia, che comunque aveva prodotto dei film straordinari. E qui invece Woody Allen torna estro, torna faro, torna innovatore, si era un po' rifugiato nei generi, da una parte il melodramma, dall'altra il noir, che lui aveva saputo rivoluzionare attraverso l'ironia, attraverso il gioco sull'ebraismo, attraverso una regia che era in qualche modo volutamente scoordinata, e invece si era rifugiato da Match Point in poi in una cinematografia molto classica, molto compassata, incapace delle intuizioni geniali che lui aveva. Gli era rimasta una cosa straordinaria: non sbagliava un'attrice, mai, non lo sbagliava mai, che Kate Winslet sia forse la migliore attrice in questo momento in tutto il mondo, anche forse più di Meryl Streep, non lo scopriamo noi. Che potesse raccontare un personaggio così bello, così profondo, così spezzato, è una donna sconfitta, è un'attrice che ha visto morire i suoi sogni, allo stesso tempo è vitale, lo si vede nella trama, non voglio nemmeno spoilerare gli elementi di trama perché non sono particolarmente originali, per carità, ma lo diventano all'interno di questa struttura che si richiama a un certo tipo di grandissimo teatro, come tu avevi detto, contemporaneo. E poi c'è una maturità visiva straordinaria, non dobbiamo dimenticare nemmeno per un attimo Vittorio Storaro, è incredibile come due maestri che in qualche modo stavano vivendo un declino, perché Woody Allen non ritrovava più se stesso e Vittorio Storaro non aveva più per le mani un cinema degno di lui, perché era troppo bravo rispetto al cinema, invece più sciatto che si diceva, si incontrano. Nessuno avrebbe potuto immaginare che il loro sodalizio potesse essere così fruttuoso, perché in fondo anche nella fotografia non c'era una delle grandi doti del cinema di Woody Allen, e invece ritrovano entrambi una grammatica visiva classica e allo stesso tempo moderna, totalmente sorprendente, tanto che all'inizio della Ruota delle Meraviglie tu sei quasi spiazzato da quanto sia rivoluzionario e forte quello che vedi. Alla fine tutto questo diventa omogeneo, diventa bellissimo, diventa impetuoso, esci con il cuore allo stesso tempo gonfio e spezzato con questa disperazione che ti coglie, perché effettivamente sei entrato fin troppo in queste vite, ma anche con l'impressione di aver visto uno dei grandi film degli ultimi anni. Difficilmente a noi come spettatori capita il privilegio di dire sono uscito fuori da un capolavoro, come poteva succedere magari negli anni 70. Io penso che questo film ce lo ricorderemo a lungo. Concordo totalmente, Boris, davvero un film che ti resta. Ho parlato anche con colleghi e colleghe che dicevano sì, ho aspettato qualche giorno per vedere se andava via, invece no, è attaccato alla pelle come una tuta da sub e quindi non se ne va. E il cinema quando è così è come dire, ci dà tutta la spiegazione di perché lo amiamo così tanto. A questo punto però noi, siccome qui alla Rosa si va dal sacro al profano così in un attimo, torniamo a giocare insieme, perché c'è un bel film, un bellissimo film di questa stagione da vincere. Se indovinate questa seconda traccia. I carri armati nemici si fermano. Come mai? Perché sprecarli se possono colpirci dal cielo a occhi chiusi. E allora, qui avete capito qualcosa in più del clima, insomma, di questo film. Titolo, vostro indirizzo, la rosa purpurea, @radio24.it. Alla fine della trasmissione vi sveliamo di che film si tratta. Qualcosa dentro di me è sempre stato lì. E si è risvegliato. Mi serve aiuto. Lascia morire il passato. Uccidilo. Se necessario. È il solo modo per diventare ciò che devi. E allora il clima di Star Wars, la marcia imperiale riarrangiata, il dialogo fra Rey e il fratello Kylo Ren, gli ingredienti di questo secondo episodio della nuova saga e l'ottavo della saga complessiva, quella che mette insieme i tre film originali della fine degli anni 70, la ripresa degli anni 90 e poi questo terzetto che si chiuderà fra due anni. A livello di trama in questo Star Wars l'ultimo Jedi, anzi gli ultimi Jedi al plurale, succedono alcune cose, non sono tantissime, ma insomma possono essere riassumibili così: come sempre c'è il male che vuole sconfiggere la resistenza, vuole sconfiggere il lato chiaro, la luce, il lato chiaro della forza, e che si deve rintanare e che ripone tutte le sue come dire, speranze su quello che si pensa essere l'ultimo Jedi vivente, ovvero Luke Skywalker, ancora interpretato da Mark Hamill, che la protagonista Rey raggiunge su un'isola, e questo l'avevamo visto alla fine del film precedente, per consegnargli la spada laser, come dire, toh, beccati questa e vai a sconfiggere chi devi sconfiggere. Lui è un po' riottoso, un recalcitrante, non ne ha proprio tanta voglia, ritiene che in fondo tutta sta speranza non ci sia. Starà chiaramente alla nostra nuova eroina, interpretata da Daisy Ridley, fargli cambiare idea, chiaramente ci riuscirà a fargli cambiare idea, e così nascerà anche quella che è la parte più bella del film, Boris, perché questo film, poi dopo la viabilità faremo un attimo di ragionamento su come collocarlo come target, però questo film ha sicuramente una durata un po' ipertrofica, 152 minuti, sono 2 ore e 12 e 2 ore e 32, scusate, e però un'ultima ora di grande effetto, ritornano alcune battaglie spaziali notevolissime, è un film di raccordo, è una parte centrale, è un film che deve portarci verso un terzo episodio dal quale ci aspettiamo molto. Sì, è un enorme raccordone, non c'è sempre la fortuna di fare Un impero colpisce ancora, e anche lì comunque avevamo questo problema. Dall'altra parte io capisco, e poi ne parleremo più a lungo, io capisco che faccio paura, no? La politica di acquisizione Disney, che di fatto, se dovesse portarsi a termine come è stato annunciato, si prenderebbe in casa l'80% dell'immaginario occidentale. Però non sono d'accordo con chi ha alzato gli scudi e ha cominciato a dire che Disney ha colonizzato Star Wars. Disney ha messo qualcosa dentro Star Wars, sono in effetti le parti più deboli di questo Gli ultimi Jedi, penso al finale che quasi arriva un umorismo involontario alla balle spaziali, penso a momenti più ironici che sono poco lucassiani e più marveliani, però è un lavoro molto molto interessante di modernizzazione di un linguaggio e di un universo. Rian Johnson secondo me ha capito che non si poteva ripetere il modello precedente è irripetibile, che si doveva parlare non solo ai vecchi fan ma anche alle nuove generazioni, e queste nuove generazioni avevano bisogno di un racconto diverso. Poi certo, ricordiamoci sempre che gli attuali protagonisti non hanno il carisma dei precedenti, anche perché non hanno avuto 40 anni per sedimentare come icone nel nostro immaginario, ma secondo me Daisy Ridley soprattutto nel terzo capitolo farà vedere cose molto interessanti. Sono sicuro che gran parte di quello che abbiamo visto in questo secondo capitolo costruirà anche a livello di contenuto e di forma qualcosa di molto interessante nel terzo capitolo, e dobbiamo anche svecchiarci noi, dobbiamo smettere di vivere nella nostalgia e apprezzare anche una saga che ha resistito, diciamo, alla colonizzazione Disney. E adesso ne parliamo proprio di questo aspetto del target fra poco, dopo la viabilità. La rosa purpurea. Quando ti ho trovato, ho visto un potere grezzo, indomito. E oltre a questo, qualcosa di veramente speciale. Così parlò il male assoluto alla eroina Rey, che vuole resistere dal lato giusto, diciamo così, della forza, e non cadere nel lato oscuro come ha fatto il fratello Kylo Ren. E questa tensione fra i due è una delle cose che anima questo Star Wars, Gli ultimi Jedi, con anche momenti interessanti, no? di dialoghi a distanza di cui non vi voglio dire di più, ma insomma che si materializzano davanti agli occhi dello spettatore. Avevamo lasciato Boris Sollazzo proprio sul ragionamento legato al target di questo film, no? Al fatto che da una parte è vero che chiaramente quel logo, quel brand Star Wars richiamerà sempre l'anima, il cuore di chi ha avuto 15 anni negli anni 70, 20 anni negli anni 70, e qui chiaramente non ci si può sfuggire, né la Disney vuole sfuggirci. Ovviamente però in questo secondo film si è consumato uno strappo maggiore rispetto alle icone della saga originale, perché c'è bisogno chiaramente di andare, per non fare un'operazione di mera nostalgia, di andare su un altro target, di andare a cercare un pubblico più giovane che magari ha sentito parlare dai genitori di Star Wars come di qualcosa di formativo della propria generazione, ma che ha bisogno di suoi eroi. E forse Boris è proprio questo il discorso da fare. Prima di inoltrarsi in polemiche che diventano sterili, questo è chiaramente un film che strappa anche rispetto all'episodio precedente e porta la saga di Star Wars verso un pubblico, diciamo pure di teenager o comunque di ventenni di oggi, come avevano fatto la serie originale alla fine degli anni 70 con noi. Sì, c'è da dire che secondo me nelle intenzioni c'era, usando appunto una frase della saga, c'era un maggiore equilibrio nella forza, cioè c'era un maggiore equilibrio tra la parte che doveva portare in sé il senso profondo della saga lucassiana e la parte invece che doveva modernizzare i propri spettatori, cioè doveva andare a cercare nuove generazioni di spettatori. Poi le scelte di sceneggiatura e la natura purtroppo hanno hanno fatto sì che tutto si spostasse invece sulla modernizzazione. Secondo me ne è uscito un lavoro che verso i meno fanatici, verso le meno vestali degli spettatori appassionati della saga, comunque ricostruisce una nuova mitologia più agile, sicuramente più giovane, meno che meno si richiama alla tragedia greca, meno classica, e dall'altra parte riesce, forse per la prima volta, era una cosa che per esempio Lucas non era riuscita con la seconda trilogia, che poi è la prima, come sapete, insomma i fan di Star Wars sanno benissimo che ci sta un problema di datazione che va sempre ricordato, non era riuscito, cioè il papocchio con Hayden Christensen e compagnia, con Ewan McGregor, Liam Neeson, viveva questo conflitto in maniera secondo me più caotica. Ma noi dobbiamo valutare una cosa, cioè non è più una saga, ma probabilmente ormai è un franchise, cioè ormai Star Wars andrà avanti molto più, molto di più. Doveva per forza trovare una sua nuova vita, una sua nuova mitologia, un suo nuovo universo. Però, insomma, credo che ci sia riuscito, credo che siamo sulla buona strada. E questo è fondamentale, appunto, il rimando al nuovo capitolo. Boris, grazie per essere stato con noi. Intanto, zitto zitto, nei primi giorni Star Wars Gli Ultimi Jedi ha fatto i suoi 2 milioni di incasso nei primi due giorni, penso che alla fine del weekend sarà intorno ai 6-7, insomma, come dire, il successo sicuramente non sta mancando, almeno al botteghino. Ci sentiamo la prossima settimana, Boris. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora, siamo arrivati a quei pochi minuti che ci rimangono, ma fra poco dobbiamo svelarvi il film misterioso di oggi e cominciamo invece dal film misterioso di 7 giorni fa. Oh mio Dio, non dovresti stare qui. Di chi è questa stanza? I Mullins avevano una figlia. Era sua. Avevano? Avevamo giocato con uno una delle sorprese del botteghino italiano dell'inizio della stagione, Annabelle 2, film horror che ha superato i 3 milioni di incasso, si è avvicinato ai 4, è stato veramente un grande colpo. E Matteo Munari di Bassano del Grappa e Mukeba Kalembua di Sestu, provincia di Cagliari, riceveranno il Blu-ray di Annabelle 2, che ci facevo raccontare in tutti i suoi particolari da Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio! Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, devo dire che sono veramente lontani i tempi dei picchi qualitativi nelle saghe horror, dei grandi squilibri tra il film originale e poi i sequel, che erano quasi sempre alimentari, perché la Blue Mouse, legata al regista James Wan, ha imposto un modello produttivo che è decisamente scaltro e redditizio. Produce di continuo prodotti medi a basso costo, molto ben confezionati e ben architettati, che non scadono mai nel ridicolo, incassano tanto e non lasciano mai, anche se non lasciano mai veramente il segno, ma fanno veramente quello che devono fare. Il Blu-ray di Annabelle 2 è ottimo e ha tantissimi contenuti speciali, tra cui due cortometraggi che hanno ispirato il film, scene eliminate e commento del regista. Questo è il nostro game allora della scorsa settimana. Giulio, diamo un'occhiata ai palinsesti televisivi della prossima invece, cominciando proprio da domenica 17 dicembre, perché alle 15.50 su Iris c'è Seven Swords, Sette Spade di Tsui Hark, film del 2005 di uno dei grandi maestri del Wuxia, del grande genere cappa e spada cinese. Sì, siamo nella Cina del XVII secolo, le arti marziali sono illegali, ma in soccorso di un villaggio in pericolo accorrono degli eroi. Diciamo che dei tanti remake dei Sette Samurai, quello ibrido, come dicevi tu, in chiave Wuxia, quindi cappa-spada orientale, è veramente il più ardimentoso. E il film di Chui Hark è un vero e proprio eastern, cioè il western orientale, in cui possono trovare spazio panoramiche alla John Ford su cavalli al tramonto e questioni d'onore risolvibili solo con duelli all'arma bianca. Chui Hark ha veramente un'abilità superiore come regista e illumina anche frammenti anche apparentemente pleonastici di grazia, come il momento in cui entra semplicemente la luce solare, oppure momenti in cui si sofferma sulle dettagli di pareti. Un grandissimo film assolutamente da recuperare. Questo per quanto concerne Seven Swords. Invece martedì 19 la possibilità di recuperare una chicca poco conosciuta della grande repertorio di Dino Risi, si intitola Il Gaucho, un film del 64 interpretato da uno straordinario Vittorio Gassman. Sì, la storia parte da questa delegazione di cineasti italiani che accompagna un film a un festival a Buenos Aires. E, sì, è un film sottostimato, come dicevi, forse il più sottostimato di Dino Risi, insieme a un altro grande film che è Anima Persa. Ed è un film questo che riversa, in cui Risi riversa la sua cattiveria in una sceneggiatura brillante scritta con Ettore Scola, Ruggero Maccari e Tullio Pinelli, dove il sottobosco cinematografaro romano, che è fatto di tutta apparenza misero e quando non miserabile, è in trasferta nel paese più italianizzato del Sud America, dove peraltro la lavorazione, ci sono numerose testimonianze a supporto, fu decisamente difficoltosa. Grande cast, come dicevi, anche questo è un film assolutamente da recuperare. E ricordiamo Il Gaucho su Iris alle 15.05 di martedì 19 dicembre. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione. Ci rimane solo una cosa da fare: ricordarvi e svelarvi il film misterioso di oggi. Si trattava di Dunkerque, il film che ha caratterizzato alla grande la prima parte di questa stagione, rilanciando di fatto un pochino anche il genere bellico. La settimana prossima I Vincitori, la settimana prossima noi saremo in onda regolarmente il sabato come sempre alle 18 e poi le puntate speciali prima di Natale, poi di Capodanno. Rimanete con noi alla Rosa Purpurea. Grazie, un saluto da Franco D'Assisi. We'll be right back.